Salve, buongiorno a tutti e benvenuti a questo esperimento. È una cosa che ci siamo inventati così, su due piedi, mentre stavamo registrando una telefonata su Skype, e ci è venuto lo sghiribizzo di creare questa cosa. Speriamo, insomma, che vi piaccia. Diciamo che questo qui è il podcast audio dei Fenrichi 94. E niente, questo episodio è particolare perché ci siamo focalizzati su tutti quanti i film che abbiamo visto l'anno scorso, quindi una puntata abbastanza cicciosa. Comunque nelle prossime puntate volevamo anche magari parlare di argomenti vari, tipo per esempio giochi che abbiamo giocato, film che abbiamo visto di recente, o anche magari, non lo so, musica, roba varia. Quindi aspettatevi un pochettino di roba varia. Io sono Fred e vi lascio all'ascolto di questo esperimento. Buon divertimento. Benvenuti tutti quanti a questo bella introduzione. Benvenuti tutti quanti a questo esperimento. Noi siamo i Fenrichi 94. Infatti qua abbiamo Federico, il sottoscritto, noto anche come Freddy Penguin. Da qualcuno sono noto come questo username. Poi abbiamo dall'altra parte Enrico, che si vuole far chiamare username. Vuoi farti chiamare solo Enrico? Non so, Axel magari. Axel. Noto anche come Axel. Poi abbiamo qua alla mia destra, abbiamo Fabio, noto anche come Osvaldo. Piacere mio. Alza la voce però. Salve, sono Osvaldo, benvenuti nella mia voce. E qua invece alla mia sinistra ho Giulia, nota anche come Jules. Ciao. Allora, questo qui è una sorta di esperimento. Esperimento. È un laboratorio. Come? Un laboratorio con tante cavie, tipo... Ovvio! Si parlava di esperimenti, quindi tu hai tutta l'aria dello scienziato pazzo. Quindi questo qui è una sorta di esperimento che volevamo fare, è un podcast dove parleremo di tutti quanti i film che abbiamo visto l'anno scorso, ovvero il 2012. Il 2012. Speriamo che sia una cosa interessante, comunque... Una cosa interessante. È già passato il 2012. Appunto, col senno di poi possiamo parlare. Andiamo per ordine, abbiamo deciso che faremo praticamente prima i film d'animazione o comunque i film non capolavori. Facciamo i film d'animazione oppure con un orsetto fatto al computer. Spoiler, cosa potrebbe essere? Lo scoprirete nei prossimi minuti. Quindi mistero! Continuerete ad ascoltarci solo per sapere di cosa stiamo parlando, perché stiamo parlando di... Vi dico un segreto, e c'è tutto quanto da bippare. Lo bipperò così vedremo un pochettino se riescono a capire. È doppiato con la mirabolosa partecipazione di Freddy. Comunque direi di cominciare perché ci metteremo un pochettino. Comunque dai, è un pochettino all'acqua di rose, è una cosa molto divertente, speriamo. Quindi buon divertimento. Allora, il primo film di cui dobbiamo parlare qual è? Nella lista vediamo che è Ralph Spaccatutto. Chi è che l'ha visto qui oltre a me? Io sono stufo di fare il cattivo. L'hai visto anche tu? No. Ha visto il trailer? Però Harry... Ho pilotato un'astronave! L'hai distrutta. Ovviamente! Ogni volta che apro un video su internet devo vedermi staccato. Oh, no, c'è sempre quella pubblicità. Esatto, basta, basta! Che bello! L'unica cosa che mi ha distrutto sono i coglioni. No! Ralph spacca palle! Comunque l'abbiamo vista solo io e Giulia, vero? Allora, parliamone. Ralph spacca tutto, l'ultimo film della Disney. Ah, la tizia è doppiata da Jane Lynch. Ah! In realtà è della Pixar, però vabbè. È della Disney, non è della Pixar. È della Pixar. Non Disney, sono Disney, della Disney. Pixar, sono della Warner Bros. Ovvio. Allora, possiamo cominciare a parlarne? Sì, dai, parlane, che il tempo stringe, abbiamo mazzi di film di cui trattare. Ovvio. Allora, il primo film di cui vogliamo parlare, appunto, è Ralph Spaccatutto, l'ultimo film della Disney. E questa è la terza volta che cerco di dirlo, perché dico sempre Pixar. Allora, 52esimo classico Disney, e devo dire che è un film pazzesco, perché sicuramente, nonostante sia un film molto più sui canoni della Pixar, è molto godibile, è un film Disney veramente, veramente bello, e soprattutto è una marea di citazioni videoludiche, di conseguenza per quelle persone che sono nati con i... Nome, Lara Croft. Ovvio. Quindi per quelli che sono nati magari con il Nintendo, col Super Nintendo, o anche semplicemente con i cabinati delle sale giochi, ci sono una marea, marea, marea di concetti che capirete subito. Quindi consiglio la visione a tutti quanti i videogiocatori. E poi vabbè, sono tantissime citazioni, appunto. Anche il semplice personaggio di Ralph, che è palesemente Donkey Kong. E non c'è neanche il bisogno di dirlo. Questo è discutibile. È palesemente lui, scusa, è palesemente Donkey Kong. È discutibile. E Felix è palesemente Super Mario. Anzi, Jumpman, che poi è diventato Super Mario. Jumpman. E quindi niente, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Niente, è un film bello. Sì. Aia. Comunque, in breve, un film molto molto bello, pieno di citazioni da Ralph, che in realtà è Donkey Kong. Questo è discutibile. A Sonic, a Sonic che appare ovunque. A, come si chiama, alla povera, alla cara soldatessa che viene un po' da Halo, che un po' è da doppiata da Jane Lynch, un po' da Gears of War, un po' in no, generale, questo è vero ovviamente. No, poi quindi c'è guardatelo Vanellope, che Vanellope è tipo la principessa Peach, praticamente è la principessa da salvare con la macchinina. Sono tantissimi, guardate, guardatevelo, perché se voi siete videogiocatori di vecchia data vi faranno venire tante di quelle lacrime, piangerete a fiumi, quindi guardatelo. Piangerete a lacrime. Prossimo film di cui dobbiamo parlare è Ted. Allora, cosa vogliamo dire di questo Ted? Diciamo che è diretto, scritto e doppiato da Seth MacFarlane, che ricorderete per i Griffin. Se nessuno di voi conosce Seth MacFarlane, dovete uscire da questo blog oppure cercarvi chi è, perché siete degni di schiaffo in faccia. Griffin, American Dad, American Dad, Dad, Dad, Cleveland Brown Show e così via. Ne ha fatti tantissimi. Però è sempre stato molto chiaro il fatto che Seth MacFarlane è bravo in fare una cosa sola: la comicità nonsense. Però a volte, secondo me, tende davvero a esagerare. Quello è il problema. Comunque, questo è discutibile. No, non è discutibile. Allora, parliamo di Ted. Ted è il film, appunto, di Seth MacFarlane, con Mila Kunis e Mark Wahlberg, che rivedo dopo aver visto... Mila Kunis salva il film. Che rivedo dopo aver visto entrambi nel film Max Payne, che vabbè, non è ma che fosse... Ma guarda caso. Che non fosse... Entrambi. Sapevi che era lei, comunque. L'ho riconosciuta dopo. Te l'ho detto io che era lei. L'ho riconosciuta dopo. Te l'ho detto io, ho detto Mila Kunis. Comunque, in tutta franchezza, l'unico film in cui mi è piaciuto Mila Kunis è Il Cigno Nero. Aggiungi Il Cigno Nero alla lista. Anch'io l'ho visto. Comunque, senza divagare, Ted è un film normale, non il capolavoro che tutti quanti hanno detto. È un film godibile, senz'altro. Ed è quello, cioè, la mia sintesi è che semplicemente è una puntata dei Griffin lunga. Quant'è che è lungo il film? Un'ora e quaranta. Lunga un'ora e quaranta. Qualcosa da dire, Axel? Nope. Appunto. Comunque, il problema è che secondo me ha lo stesso problema di Griffin, ovvero ci sono alcune scene che sono geniali. Vedi geniali. Tutte le parti su Flash Gordon. Oh, oh, su Flash Gordon mi stavo pisciando ogni volta. Ma allo stesso tempo ci sono delle scene veramente, veramente di cattivo gusto. Cioè, sei alla decima volta che un orsacchiotto dice a un islamico grazie per l'11 settembre, scusate, ma davvero mi veniva magari di uscire dal cinema. Però dal canto suo, la parte finale dove Mark Wahlberg tira un cazzotto al bambino viziato, quello era bellissimo. Spoiler realizzato. Questo lo taglio. Comunque, spoiler finale: il protagonista diventerà poi quello di Twilight. Quello mi sono pisciato quando ho visto quella parte. No, lo devo dire alla mia amica che fa tutta di Twilight. God. Io che mi sono pisciato quando ho iniziato a parlare male di Superman Returns, perché se lo meritava. Comunque, niente, un film bello, senz'altro. Però non è sto capolavoro che tutti quanti hanno detto. Proprio il problema è che certe scene sono veramente troppo. Faccio un esempio. Non so se qualcuno qua ha visto Cavalcade of Cartoon Comedy. No. È praticamente una serie di corti che ha fatto Seth MacFarlane. Alcuni sono geniali. Tipo, non so, sicuramente lo trovate su YouTube. C'è una scena in cui c'è Vile Coyote che ammazza finalmente Bip Bip. Se lo mangia. E poi alla fine, visto che la sua vita non ha più senso, cerca di suicidarsi. E poi diventa, trova un'altra passione nella vita. Diventa un testimone di Geova. È geniale. Però ci sono veramente alcune scene che sono davvero penose. No, dai, penose. Aspetta. È dissacrante. Aspetta, non sto dicendo di Ted, anche di Ted, ma di questo Cavalcade of Cartoon Comedy c'è una scena che non ho proprio capito. C'è Fred Flintstone che scorreggia per 5 minuti senza sosta nel bagno. Ed inquadrate un fotogramma. È un fotogramma delle sue gambe che non si muovono neanche, lui che scorreggia. Che senso ha? È bello. No. Che senso ha? Sono 3 minuti di lui che scorreggia. Mettete qualcos'altro. Prima ha detto 5, adesso sono 3. 5, 3 minuti, non lo secondo so. Secondo me adesso diventano 2. Comunque, è un film bello. Una parodia di tutte quante queste cazzo di commedie americane che ormai stanno veramente rompendo le scatole. Però. Morte a Ming! Però veramente, dai, un bel film. Morte a Ming. Prossimo film di cui dobbiamo parlare è L'era glaciale 4. Oh, voglio fare una premessa. Secondo Henry, me... tu l'hai visto? No. Tutti i film dopo l'era glaciale 1 sono abbastanza inutili. Io non vedo perché arrivare a un quarto. Cioè, ma neanche io, guarda, già da quello dei dinosauri. Stiamo toccando dei veli pietosi. Basta. Comunque, parliamo dell'era glaciale 4. Che c'è da dire? È il quarto titolo di una serie che ormai ha veramente rotto le scatole. Il primo era molto freddo. Come? Suppongo faccia molto freddo. Ovviamente. Il primo era bello, molto bello. Un ottimo film della DreamWorks, era giusto? Sì, sì. Un ottimo film della DreamWorks. Veramente, veramente godibile. Il secondo, sì, vabbè, hanno aggiunto la mammut femmina, quindi per avere un po' di politically correct. Hanno aggiunto anche le lontre o quel cavolo di animali che sono. Gli opossum, che sono tipo Panco Pinco e Pinco Panco. Uno più dietro dell'altro. No, quando fanno la scena. Esatto. Tipo... Poi il terzo è nata l'elefantina, se non ho capito male, giusto? È nata l'elefantina. No, hanno trovato i dinosauri sotto il ghiaccio. I dinosauri sotto il ghiaccio. Certo. E già... io sono morto, e ma già... poi sono sopravvissuto. E quindi comincia... No, lì avevano trovato i dinosauri e avevano rischiato così di ammazzare, di morire. Insomma, non aveva proprio senso. Già da quello non aveva neanche più senso. Il quarto, Continente alla deriva... è veramente è un film per bambini, non è neanche più per adulti, niente, è un film è un film per bambini, non è assolutamente un film che possono godersi tutti, è un film che bisogna guardare senza avere le pretese di vedere un bel film d'animazione, troppo, in certe parti scontato e noioso, scrivi? La DreamWorks che si autoplagia. Perché bisogna scaricare l'app. Come? La DreamWorks che si autoplagia, dicevo. Esatto, si autoplagia. Già il quarto film che fanno. Niente, un film che sinceramente... Ma già dal secondo hanno toccato il fondo. Questo è vero. No, hanno toccato il fondo e stanno ancora cercando di toccarlo ancora di più. Bello è il primo, c'è il bambino che era così puccio e almeno aveva un pochettino di storia, dai. Sì, ma io mi chiedo perché la DreamWorks stia lottando per fare roba ancora più brutta di quella che sta facendo adesso. E poi tra l'altro, questo qui sembra solo un film creato per... Ok, sapete che c'è Sid... è un Forever Alone, ma hanno cambiato il doppiatore di Manfred, no, tra l'altro, che sarà Filippo Timi, che è lo stesso che ha doppiato Batman e in entrambi ha fatto cagare il doppiaggio. Comunque, Manfred ha trovato la sua anima gemella. La tua anima gemella! E poi... qua c'è la presentazione dell'anima gemella di Diego. E questa è l'unica cosa interessante. Ah, la tizia. La tigre siberiana bianca. Ma e ma quindi... c'è lo scimpanzé cattivo che è lui. Il scimpanzé cattivo che è uno, forse è uno dei personaggi che fa. Ma no, poi c'è la nonnina di Sid. Esatto. Che volevano scaricare. Sì. Esatto, la nonnina che è che una rompicoglioni. Che si fa con una balena. È vero. Scopre alla fine che... che era la il di Neanderthal li ammazza tutti a questi. Non lo so. Per favore, fateli morire presto. Comunque, film veramente penoso. Ormai stanno davvero raschiando il fondo, quindi... Stanno cercando di superarsi nella bruttezza. E ci sono sempre riusciti ormai. Prossimo film. E qua ce n'è davvero tanto da parlare. Qui si parla di un film, questa volta non mi ricordo se questo sia della DreamWorks. Questa è della Pixar. Della Pixar, quindi se la DreamWorks fa cagate, anche la Pixar ha cominciato a fare cagate. Non solo Cars, come dice il grandissimo Dario Moccia, ma anche altri film. Qui c'è film. Una gara a colpi di cagate proprio, uno scontro Cavolo. All'ultimo sangue. E infatti dopo ci sono un altro po' di film cagate. Comunque, Ribelle. The Brave. Come allora. Sto già a tradurre The Brave come ribelle. Come dice Dario Moccia, ribelle le cose, perché dice due fregnacce alla madre. Ma dai. Allora, sinceramente, questo film è noioso. È veramente, veramente noioso. Oltre che essere noioso, ha anche una trama inconcludente. È una trama veramente insulsa. Ma c'è il trota. Secondo me è troppo simile a Coda Fratello Orso, che era un bel classico Disney. Poi, come dicono questi cari troppo amici... Troppo simile. Aspetta un attimo. Io litigo con mia madre. Mia madre si trasforma in un orso. Impariamo un sacco di cose sul senso della vita. Ci vogliamo bene di nuovo. Mia madre si ritrasforma in un umano. Esatto. Dove ho già visto questa cosa? Coda Fratello Orso. Dove il protagonista si trasforma in un orso. Dopo che ha cercato di ammazzare. Dopo aver litigato col fratello. Poi imparano tante belle cose sul senso della vita. Alla fine si ritrasforma in un umano. Poi però si pente e si ritrasforma in un orso. Sono sottigliezze, la trama è la stessa. Veramente, veramente noioso. Io mi stavo quasi addormentando durante il film. E poi una cosa particolare. Io speravo che finisse in tragedia. Esatto, sarebbe stato almeno un bel film. Ma che diffamatorio, non lo so. No, invece, poi avevano mosso critiche. È un film della Disney. No, perché poi avevano mosso critiche al film. Perché si credeva che la protagonista fosse lesbica. Ma chi se ne frega, dai. Sarebbe stato il minore dei problemi. Anzi, sarebbe stato anche più interessante fosse stata lesbica. Comunque, sinceramente, con i tre fottutissimi fratellini. È un film noioso. E poi quello che stai dicendo tu, i fratellini. Voglio dare il Razzie Award a quei fratellini. Li voglio morti. Io i fratellini pensavo che fossero una. Ah! Pensavo che fossero una. Pensavo che fossero una ottima spalla comica. Appaiono due minuti in tutto il film. Non per è mangiare biscottini. A mangiare biscotti. E tu sono Massino Orsetti. No, ma altro. Ma che senso ha veramente questo ma film? Ma non fanno ridere i tre fratellini che mangiano i biscottini. Fanno quasi piangere. Cioè... Esatto, non è un bel film. È scamotage comico. Vado lì e mangio un biscotto. non si salva niente. Forse solo magari qualche personaggio. Perché in effetti, come al solito, dal punto di vista grafico è veramente meraviglioso. E dal punto di vista dei personaggi sono veramente, veramente molto belli fisicamente, ma sono veramente da prendere a cazzotti dal primo all'ultimo. Il padre si salva perché è un bel personaggio. Sì, ma a parte il padre e... Poi la storia dell'orso cattivo. Cioè il tizio che si era trasformato nell'orso ed era secondo me. E poi una cosa, avete notato che il duello sembra quasi di vedere Robin Hood? Oddio. Sembra una scena, cioè, sembra la scena di Robin Hood quella. Dove c'è lui che tira tre frecce in tre bersagli diversi e le centra tutte quante. Ma dai! Guarda caso le centra tutte e tre. Poi tra l'altro c'è il grandissima guest star, il trota. Il trota appare in uno degli spasimanti di Melinda. O Merida. Le ho finito. No, l'introspezione psicologica all'interno dei personaggi è pregevole quanto lo può essere in un film come Twilight. E nulla. Non imparano un cazzo. Anzi, imparano quanto impara Thor nel film di Thor. Niente, praticamente. Tra l'altro, Thor, film bellissimo, vero? Capolavoro proprio. Da quando è che la Marvel non faceva film così belli? Da Spider-Man 3. Ovvio. Comunque, veramente un film bruttissimo. Piuttosto guardatevi o Up o Wall-E, che sono veramente i capolavori. Allora, prossimo film è una porcata immensa. Io lo conosco solo perché la tizia è doppiata dello Switch. Il prossimo film è una cagata pazzesca. Bravo. 92 minuti di applausi. Parliamo di Lo Horrocks. Allora, Sinceramente, questo film, sentito nominare. Questo film è particolare perché praticamente viene dal folklore americano. Infatti, se noi abbiamo Cenerentola, Biancaneve e varie storie dei fratelli Grimm e Cappuccetto Rosso, gli americani nel loro folklore hanno uno scrittore che si chiama Dr. Seuss, o meno che ha come pseudonimo Dr. Seuss. Ora, quindi questo film viene dal famosissimo libro Lorax, che è un libro per bambini dove appunto si parla di questa creatura. Sì, che sentiamo in sottofondo. Questa creatura particolare che è appunto il Lorax, come si può dire, come in genere, come storia, una storia molto conosciuta tra i bambini. Tanto conosciuta che... Stai zitto un secondo. Tra i bambini dell'Oregon. Ovviamente. Ora, ne hanno voluto fare un film. Lorax. Allora, come film non è che sia tanto male, assolutamente. Vabbè, pregevole, molto carino, è un film comunque ambientalista, molto interessante, non è che sia tanto da dire. Il problema è quando è arrivato in Italia. In Italia è stato doppiato. Oh god, il doppiaggio del questo Lorax. Personaggio è stato doppiato da un vecchio. Comunque, niente, il doppiaggio in italiano a me non è piaciuto, ma manco per niente. Forse perché boh, se volete guardarlo, guardatelo, ma sinceramente è veramente una cosa per bambini. Molto ambientalista, comunque carino. Prossimo film di cui Pirati, briganti da strapazzo! Con la partecipazione di Christian De Sica! Luciana Littizzetto. Luciana Littizzetto. Allora, questo nei film... Nei panni della regina Vittoria. Allora, questo film è continua la grandissima, il grandissimo stile di personaggi in plastilina. Il dolce stop motion. Tirato in ballo da Wallace... Galline in fuga. Da Galline in fuga, da soprattutto, ricordiamolo, Wallace e Gromit. Wallace e Gromit, Galline in fuga. Allora, quindi è un film... bello, secondo me. È una trama piuttosto basilare. È un film comunque interessante, molto carino. Luciana Littizzetto fa troppo ridere, come al solito, quando fa la doppiatrice. A me non è piaciuto. Christian De Sica, vabbè, se la cava come doppiatore. No, Christian De Sica è un bravo doppiatore. Se la cava come vedi doppiatore. Ortone il mondo dei chi. È bruttissimo. Appunto. Ma non l'ho, mi sembra di averlo visto tipo a pezzi, ma davvero il doppiaggio era penoso. Qualcun altro con un cameo di Charles Darwin. Ovvio. E di un dodo. E di un dodo. Il dodo è il mio personaggio preferito del film. Esatto. Ha conquistato il mio cuore. Veramente, veramente. Gli ho mandato delle fan mail, ma non mi ha mai risposto. Poi, vabbè, un bel film, dai, guardatevelo. Passiamo fate alla risate. Prossima posizione. Che è occupata dal gatto con gli stivali. Nuovo film della DreamWorks. Ora, il protagonista è Antonio Banderas, come sempre lo doppia anche in italiano. Lui, a differenza di Danny DeVito, l'ha doppiato in tre lingue. In tre lingue, spagnolo, italiano e inglese. E gli devo dare atto, ha fatto un lavoro straordinario. Sì, dai, è bravo. Molto, molto bravo. Sì, dai, è bravo. Allora, niente, un film bello, differentemente da... Shrek vissero per sempre felici e contenti, che è una merda. Per favore, se tu stai ascoltando questo video e vorresti guardare Shrek e vissero per sempre felici e contenti, non farlo, ne va della tua sanità mentale. Io purtroppo sono un rincoglionito grazie a quel film. Poi comunque anche diciamo che Shrek il primo era bello. Il primo era bello, il secondo era carino, tutti gli altri ciao. Il secondo era carino, il terzo, ma era un po' una boiata. Il terzo, ciao. Il terzo è Raperonzolo che perde i capelli, questa è l'immagine che rappresenta tutto quanto il film. Il quarto è veramente la merda peggiore che abbia mai visto. Il quarto è, ehi ciao, non siamo la DreamWorks e non sappiamo che cazzo fare. Beh... Allora facciamo così, facciamo un nuovo capitolo di Shrek. Cosa? Ma la trama è già conclusa, come faremo a fare un nuovo capitolo di Shrek? Stravolgiamo tutto! Beh, prendiamo tutte le parole del vocabolario, le scriviamo in fogliettini, le mettiamo in una sfera e ne prendiamo una a caso. Come ogni volta. Come Yotobi, aveva fatto... E con quella scriviamo la sceneggiatura. Bello? No, infatti la sceneggiatura secondo me è scritta con una parola a caso dopo l'altra. Ogni due secondi. Comunque, Invece sono uscite Nano, Topo Arrosto, Viaggio Mentale, come si chiama? Back to the Future, Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin, Tremotino. E c'è anche Tremotino, se non sbaglio, giusto? Tremotino, Il nanetto. Tremotino, c'è anche Tremotino. Per me è Rumpelstiltskin, non mi rompete. No vabbè, ma io lo odio. È un ognomo, dai. Se ti guardi Once Upon a Time è più figo Rumpelstiltskin. Comunque. Ma chi è? No, aspetta, dimmi. Rumpelstiltskin. Tremotino. Vai su pagina Wikipedia, Tremotino, e vai alla fonte inglese. Così comunque, a me sinceramente questo film è piaciuto. Quest'ultimo, appunto, Il gatto con gli stivali. Che in qualche modo è in qualche modo un rilancio, un mimo di della DreamWorks. Perché dopo aver fatto quel film di merda che è Shrek, Vissero per sempre felici e contenti, ha finalmente fatto un film non all'altezza del primo Shrek, ma che almeno, dai, ci può stare come film. Perché è bello. Qualcosa da dire? Nulla. Allora parliamo dell'ultimo film d'azione, dell'ultimo film d'animazione, che però a me, e credo anche agli altri, è piaciuto tantissimo. Un mostro a Parigi. Un film d'animazione francese, veramente fatto però bene. Allora, parliamone in maniera seria, dai. Mostro a Parigi. Seria. Allora, è un film d'animazione abbastanza Parigi, indipendente, ovviamente, perché è un film di una casa francese sconosciuta che però ha il suo bel da dare, perché a differenza dei film come Rebel the Brave, che è stato fatto con un casino di soldi, questo è fatto con pochi soldi, però ha quell'atmosfera molto parigina che ti fa sognare, sinceramente. È un film che va bene per tutte le età, che ha personaggi un veramente bellissimi, tipico umorismo della comédie française, ovvio. E poi molto interessanti i design di alcuni personaggi, dal naso molto lungo, dal naso, diciamo, pronunciato alla Squiddy. Alla Squiddy, che sono capaci di trafiggere persone con quel naso molto importante. Comunque è un fa pisciare dalle risate questo film. E sapete qual è la cosa che fa più ridere di questo film? Il doppiaggio di Arisa. Esatto, la voce della protagonista basta a farci ridere dalla mattina alla sera. Allora, è un film, è un film bello, molto bello, in parte rovinato dal doppiaggio italiano che è fatto la protagonista da Arisa. Che è l'unica che non ci sta per niente. Però poi il protagonista maschile è Brignano. Il protagonista maschile Brignano è Raff. Raff che fa Raff interpreta la p***a canterina. No, non devi spoilerarlo. Fa Monsieur Francoeur. Con il nome da una via. Il signor Franco Cuore. Con il signor Francoeur doppiato da Raff. Da Raff. Ma intanto tutte le parole del suo copione sono tiki tiki tiki tiki tiki. E quindi ha avuto ben poco da doppiare. Comunque con un ukulele. Esatto. Comunque poi doppiato anche dal grandissimo Enrico Brignano, che ci sta benissimo in questa parte dello spilmungone. Dai, ci sta benissimo. E poi vabbè, è un film molto musicale, pieno di musica, quindi e Arisa si salva solo quando canta. Quando fa normalmente la voce, neanche tanto, si salvicchia. Comunque è un film veramente molto bello. Sembra un'umana quando canta, facciamo così. Se l'avete schifato questo film, guardatevelo magari in lingua originale, in ma francese. Secondo me neanche sapevano dell'esistenza di questo film. Guardatelo perché è davvero un bel film. Pardon. Passiamo a un film tuo. Oddio, ragazzi, allora quindi adesso lasciamo campo libero al caro signor Osvaldo per parlare di un paio di suoi film, dai. Il primo film di cui vi parlerò oggi è probabilmente uno dei primi film che ho visto quest'anno, ovvero J. Edgar. J. Edgar per la regia di Clint Eastwood. Qualcuno di voi sicuramente lo ricorderà per quei western balordi di Sergio Leone. Stavolta è alla macchina da presa che dirige un Leonardo DiCaprio che interpreta il fondatore dell'FBI, J. Edgar Hoover. È un film, sì, abbastanza bello, con una buona atmosfera, con una fotografia particolare, un che di recitazione, molto bravo soprattutto Leonardo DiCaprio, che per me, lo sapete, in realtà non lo sapete, però ve lo dico ora, è il nuovo Robert De Niro. Qualcuno mi insulterà per questo, ma io sono convinto che sia così, perché è un grande, i suoi film con Martin Scorsese lo attestano. E niente, guardatevelo. Ha un unico doppiaggio, cioè è un unico difetto, il doppiaggio non c'entra niente. Un difetto che ha notato anche il grande youtuber Mattia Ferrari è il trucco di questo film, perché voi dovete sapere che in questo film ci sono delle parti ambientate all'inizio del Novecento, dove il protagonista, Leonardo DiCaprio, è giovane. Altre parti in cui è vecchio, e nelle parti in cui è vecchio ha un che di Ruggero dei Soliti Idioti. No! Dai, cazzo! Ragazzo, tengo! Esatto! Tra l'altro non abbiamo messo Prometheus tra i miei film. Non lo... Ah, ma mettiamolo allora. Infatti, mentre stavo guardando il film... Più che Leonardo DiCaprio, il suo amico Frocio... Sì, perché c'è un suo amico Frocio nel film... È identico a Ruggero dei Soliti Idioti. Io verso la fine del film speravo che si fosse girato a dire dai cazzo. Purtroppo non l'ha fatto, non ha obbedito ai desideri del mio piccolo cuoricino. Ma pazienza, e passiamo allo scimprorio di Tim Burton, vai. Allora, parliamo di Dark Shadows. Allora, parliamo di un altro film che mi ha fatto veramente, veramente incazzare. Infatti stiamo parlando di Dark Shadows. Allora, qual è il problema di Dark Shadows? È il nuovo film di Tim Burton. E a me Tim Burton, sinceramente, come regista piace. Come regista... Tim Burton è famoso per aver iniziato bene la sua carriera con film come Edward Mani di Forbice, averla bellissimo, proseguita bellissimo. Con film altrettanto carucci tipo Big Fish, ed essere finito rovinosamente con cagate alla Alice in Wonderland. E aver continuato addirittura con... con Dark Shadows. Con Dark Shadows. Che cos'è questo Dark Shadows? È praticamente Twilight fatto da Tim Burton. Sinceramente io non capisco perché accidenti Tim Burton si sia messo a fare delle cose del genere. Già con Alice in Wonderland si era un pochettino svenduto, perché sicuramente quello non era un film burtoniano, ma bensì era un film palesemente disneyano. Disneyano con un breve assaggio di Tim Burton che fa finta di non esistere. Sinceramente, come film, Dark Shadows non mi è piaciuto per niente. Brutto, brutto, brutto. A me è proprio troppo brutto, troppo brutto. È un film che poteva anche cominciare bene, perché ha un pochettino le ambienti, come si dicono. Sì, ma è tratto da un acribio di telenovela. Esatto. Partiamo già dal primo punto. Tim Burton deve fare un film. Su cosa lo basa? Su una telenovela, su un personaggio, cioè su un vampiro. Sinceramente, come idea, c'è su un tizio che viene successivamente trasformato in vampiro, poi viene riaperta la bara dopo 200 anni o quasi. Ora, sinceramente, già come idea di partenza non mi sembra il migliore degli auspici. Cosa cavolo poteva uscire secondo voi? Adesso facciamo Beautiful il film con un pizzichino di Twilight. Perché veramente questo film di Tim Burton ha ben poco, se non le atmosfere. Ma senza neanche fare spoiler, no. Cavolo, vampiri, ci devi mettere dentro anche licantropi, ci devi mettere Alice Cooper all'improvviso che appare. Ma che cazzo? Che è un momento del tipo what the fuck. No, che poi lo sapevi che c'è è presente la scena all'inizio dove c'è la tizia che arriva alla stazione? Sì. Ci sono i figli di Tim Burton seduti. E poi questa scena d'amore buttata così. La scena d'amore tra Victoria e il protagonista. Tra l'altro l'approfondimento dei personaggi è nullo. Cazzo, eccetto Barnabas, degli altri personaggi non sai niente. Barnabas ha una storia d'amore con Victoria. Ecco, di Victoria non sappiamo niente. Sappiamo che ha un passato burrascoso, ma non sappiamo niente. No, vabbè, che è finita. Non ci raccontano niente, ci raccontano che è finita in orfanotrofio e in manicomio. No, i genitori l'hanno mandata in un manicomio. Ma non si sa nient'altro. Con la gente morta. Non si sa nient'altro. I figli sono semplicemente il bambino è un rompiscatole. La bambina invece si trasforma. In licantropo. Tanto piccola non è bambina. E la ragazza si trasforma in licantropo. Ora, sinceramente, questa è un film brutto. Non guardatelo se volete tenervi in testa i cari bei film di Tim Burton, come Edward Mani di Forbice e Big Fish. Ma sinceramente, questo film non guardatelo, è veramente brutto. Prossimo film di cui dobbiamo parlare, Le Belve. Allora, Le Belve. Ora, io sinceramente non credo di aver visto altri... L'unica cosa più positiva è... Nulla, non c'è di positivo. Questo film è sinceramente... È un film sinceramente noioso, con personaggi che sarebbero da pestare dalla mattina alla sera. Solo la cattiva magari si salva un pochettino. Cioè, praticamente la storia è... Ci sono questi due ragazzi che hanno una relazione con la stessa ragazza e quindi sono un terzetto... E lo sanno. E producono droga. E quindi la trama si dipana che questi due... gli viene rapita la ragazza perché non vogliono fare affari con... Questa donna messicana. Che ha una parrucca. Tra l'altro, apparizione di Benicio del Toro, se non sbaglio, che fa un... Benicio del Toro, che fa un personaggio veramente... malato dentro, che è forse uno dei pochi personaggi che mi è piaciuto. E quindi praticamente Johnson e John Travolta non ti sono piaciuti, nel senso, aspetta, John Travolta era il poliziotto. John Travolta sì, e Aaron Johnson non ti è piaciuto. Chi era? Aaron Johnson era uno dei due ragazzi, c'aveva la barba, e l'attore di Kick-Ass, quello con i capelli lunghi, che no? Dici? Sì. Ah, ok, ho capito chi è. Ah, è fatto che ho capito. Tra l'altro, molto, molto famosa la scena in cui loro dicono di no a questo patto. E rimarranno famosi con due frasi. Ben, se non sbaglio. Ben è il cattivo. No, Ben è il buono. Ben il buono viene conosciuto come niente di personale. L'altro invece come caviale in merda. Molto, molto istruttivo. Sinceramente, eccetto John Travolta ed eccetto Benicio del Toro. Questo film è veramente da cestinare, secondo me. Inoltre, la trama sarebbe questi due ragazzi che gli viene rapita la ragazza e cercano di salvarla diventando mercenari, una cosa veramente malata. Io lo voglio vedere perché secondo me... Secondo me veramente è una cosa... Ah, e poi la è una cosa veramente brutta. È interpretata da Blaine Cleverly, non mi sembra... Io mi ricordo come il cognome... Poi una cosa, il finale, senza spoilerare, ma il finale, sinceramente, è una paraculata enorme. Comunque, adesso diamo un pochettino di spazio a Jules... che ci parla di The Hunger Games, che io personalmente non ho visto, però mi dicono tutti quanti che sia un film magistrale, che sia il nuovo Harry Potter, quindi sentiamo un pochettino cosa ha da dire la carissima. Allora, The Hunger Games è tratto da una trilogia di The Hunger Games, è il primo... The Hunger Games è il primo, poi c'è la ragazza che qualcosa col fuoco. La ragazza che giocava col fuoco in realtà è di Millennium. Catching Her Fire, qualcosa del genere. Non so benissimo la trama perché non ho letto il libro, quindi... Ma alcune... sei visto... No, aspetta, però non è... alcune cose non sono spiegate perché vengono spiegate nei libri successivi. Non è una bella cosa, Giulia, quando fanno un film da un libro e non spiegano qualcosa. No, perché perché vengono spiegati nei libri successivi. Comunque, no, insomma, parlaci un pochettino, ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Di che cosa parla il film? Praticamente siamo in questo... Di gente che si ammazza, è Claymore in pratica. Siamo in questo... Praticamente c'è questa grande... praticamente una grande città divisa nei vari cosi, non mi viene il nome. Distretti. Ghetti. Distretti, infatti distretti. Ghetti. No, non sono ghetti, però alcuni. Distretti. Che Distretto. Per essersi ribellati a, diciamo. Dislarghi. Che per essersi ribellati alla forza suprema ogni anno devono fare questi Hunger Games. Due ragazzi, un ragazzo e una ragazza dai 12 distretti devono combattere in un'arena ammazzandosi a vicenda. Molto educativo. Dal 12esimo distretto, che dal 12esimo distretto, che è quello più malandato, praticamente sono tornati all'età della pietra quasi, vengono prelevati inizialmente la sorella della protagonista, che per pura sfiga, perché la protagonista è una donna, sì, se è una protagonista, Katniss, ti stanno chiamando? No ma dico no. Cazzo, mi stanno attaccando. Che per pura sfiga il primo anno in cui diciamo si può partecipare agli Hunger Games, partecipare vieni scelta a sorte, Katniss prende il posto della sorella insieme a un suo amico più o meno, Pita. Già dal nome, Petta. Che tipo è? È una sorella. In fondo è simpatico, dai. Su. È un pecco. Quindi arrivano a questi Hunger Games, sono in questa arena, si ammazzano a vicenda, alla fine rimangono in tre, Katniss, Pita e il cattivo di turno, che è di un altro distretto, che... Spoiler! Quindi vincono... Che bello, io lo volevo vedere. Lo bippo. Che praticamente costringono Katniss e Pita a uccidersi a vicenda, però alla fine loro non si uccidono, quindi sono... Che bello! Sono i primi due vincitori di The Hunger Games e poi c'è il seguito... Che bello, io lo volevo vedere. Perché tanto sei visto? No, anche comunque... lui lo voleva vedere poi. Che poi gliel'ho detto 20 volte di vederselo e non ho detto no. Però se ne sto cercando neanche di ascoltare, quindi. Comunque è molto bello. Consigliato alle persone che piace, a cui piacciono le cose molto... Splatter? Sì. Che ti ammazzano gentaglia così, su! C'è gente che viene ammazzata per colpa di vespe giganti. Molto figativo. Cosa di tutti i giorni. Ovviamente. Perché no? Fine. Come da vedere, che è fighissimo. Molto interessante come recensione. Io gli darei un bel 9,5 alla recensione, non al film. 9,42. 442. 442, dai. Tutto niente. Allora, parliamo di un film italiano, non credo di cui ne abbiamo parlato prima. Tutto niente niente. Il seguito di Qualunque Mente. Boh, il seguito di Qualunque Mente. C'è Albanese. C'è Albanese che veramente fa pisciare dalle risate. Qui Albanese non interpreta solamente Cetto da Qualunque, ma tutti e tre i personaggi che l'hanno reso più famoso nel grande schermo. Che cazzo sono? Il fascistone, Cetto da Qualunque, e il fumatone. Esatto. Il fattone. Non il fumatone. Purtroppo io non sono un grande fan di Albanese, quindi non mi li dovete chiedere perché non lo so. Probabilmente voi che state ascoltando lo sapete meglio di me. Niente, comunque un film a me è piaciuto sinceramente, molto divertente, molto non so neanche come cavolo definirlo, comunque un film molto divertente, sicuramente molto, come si può dire, molto una critica sociale italiana, si vede comunque una visione molto colorita del... nella politica italiana. Una versione molto colorita della politica italiana, una parodia secondo me molto ben riuscita, con guest star come per esempio appare come presidente della Repubblica, se non sbaglio, Paolo Villaggio, quindi il famosissimo Fantozzi. Meglio è così. Un film che lascia sicuramente molto l'amaro in bocca per quanto riguarda la situazione italiana, perché non siamo in quella situazione, ma siamo veramente molto vicino a una situazione del genere. Qualcosa che devi dire tu, Giulia? Ne ha proprio niente. Possiamo proseguire. Tutto niente c'è da dire. Niente, è un film bello, guardatevelo. È forse anche più bello di Qualunque Mente, perché comunque sì, Qualunque Mente era un film molto molto molto molto particolare. che portava sul grande schermo. Non si pagano le tasse neanche una volta, giusto per provare, perché poi ti viene il vizio. E finisci per pagarle per tutta la vita. Esatto, non si fa. Ok, adesso abbiamo proprio una perla incredibile di commedia all'americana. Molto, molto. Oddio, chi era Deo? Una cosa veramente assurda. Parliamo di The Oranges. Che in italiano è la stato... L'ha tolto come... Scusa, ma mi piace... No, era scusa, mi piace tuo padre, niente male. Cosa che ricorda tantissimo un certo, non so, moccia che tanti potrebbero ricordare, che ne so. Oh, che cosa brutta. Appunto. Che odio. Questo film è la... Che si può dire... È la rappresentazione di dove è arrivata la commedia americana. C'è Hugh Laurie, grande attore conosciuto soprattutto per la parte del padre in Stuart Little, non è vero? Come figlio di come padre di De Laurentiis, ricordiamolo. Comunque, veramente, è un film che non è piaciuto per niente. È un film che rappresenta dove è arrivata ormai la... Rappresenta ormai dove è arrivata la commedia americana. E ricordiamo che la protagonista femminile è Leighton Mistress, quella che fa... Non so neanche se ho detto il cognome giusto. Quella Mistress. Che fa Gossip Girl. Gossip Girl. L'unica cosa è che è bella, punto. Esatto, per il resto è semplicemente una storia di un cinquantenne, credo che va a vivere... Cinquantenne. Anche di più, eh. Anche di più. Che un se uomo ne... sulla sessantina. Che se ne va a vivere con coso, con una diciottenne. No, che poi pure la moglie. Comunque, in generale, è un film che non consiglio perché... Ai livelli di Massimo Boldi. Aspetta, fammi... Enrico, hai qualcosa da dire? La cacca puzza. Perfetto, grazie per il grandissimo contributo. Ora parliamo di un film che ha fatto incazzare tutti. Io non l'ho visto. Red Eyes. Io non l'ho visto. Ragazzi, non vedevo Robert De Niro così in basso da Manuale d'Amore 3. Allora, facciamo... È vero che era Manuale d'Amore 3. Facciamo parlare Fabio e poi ne parlerò io. Dovete sapere che io sono un grande fan di Robert De Niro. Ed è 43. Ed è da Manuale d'Amore 3 che non lo vedevo così in basso. Perché questo è uno di quei film che all'inizio... Te lo fa sembrare una cosa bellissima. Questo film sembra all'inizio questo thriller emozionante, psicologico, questi scienziati che vogliono rovinare i guadagni di questi medium truffatori, poi dopo metà film inizia a scadere nella pateticità dei dialoghi e delle situazioni, per arrivare a un finale che ti distrugge tutti i buoni propositi che aveva all'inizio del film, facendolo cascare nel fanta paranormale. E qui questa è tutta l'anima del film, con Cillian Murphy che tenta di salvarlo con un minimo di recitazione ma da solo non ce la può fare, Sigourney Weaver idem, però per motivi che non posso dirvi non la vedrete per molto tempo. E basta, non ho altro da dire, cioè è un film mediocre. Un film che inizia bene e finisce male. Allora, diversamente da quanto dice il caro Osvaldo, io sinceramente l'ho apprezzato come film, perché è sicuramente tantissimo tempo che non vedevo un thriller psicologico che teneva col fiato sospeso per tutto quanto il film. Ho adorato tutti quanti i vari colpi di scena, che sono comunque parecchi. A me sono piaciuti comunque molto i personaggi, in generale anche la trama, che sicuramente è il fulcro, poi le allucinazioni di Cillian Murphy, che sono qualcosa di veramente assurdo. Non vedo Robert De Niro di notte, vedo persone di colore che mi guardano male. Yo nigga, are you fucking looking at me? Allora, senza parlare del finale, in effetti il finale il finale fa cagare. È brutto. Il finale in effetti può sembrare veramente una cosa indecente. Comunque è un film che nonostante tutto a me è piaciuto, finale a parte, e che consiglio perché comunque è uno di quei film che o lo si ama o lo si odia, assolutamente. Guardatelo perché è una cosa pazzesca, direi. Vuoi parlare di Kagan? Oppure... Kogan. Kogan è bellissimo. Dai, parliamo. Bene. Allora, parliamo di Kogan. Film con Brad Pitt, ed è veramente un film di gangster fatto bene, con un ottimo Brad Pitt che fa un impomatato detective che deve uccidere tre persone che hanno sgarrato. Detective è un killer, non è un detective. È un killer. Assoldato dalla mafia. Un killer molto a pagamento. Molto detective. Un killer a pagamento che deve ammazzare tre persone e li ammazza dolcemente, ovvero citando una delle morti. Una delle morti è: sono su una macchina, l'altra sull'altra macchina, abbassa il finestrino, gli spara con un fucile a pompa, ammazzandolo sul colpo. Ma le scene d'azione sono tre in tutto il film, perché sono tre le persone, le tre persone che devono morire, veramente molto contate proprio col contagocce. Sono scene molto molto belle. In generale mostra un paese corrotto. C'è veramente Ray Liotta. Quindi in generale un film che consiglio assolutamente, perché è un film molto sporco, violento, però il giusto necessario. Quindi guardatevelo, perché ma davvero c'è Ray Liotta, quindi va visto. E quindi guardatevelo anche per Ray Liotta. Ok, quindi adesso avremo finalmente Enrico che esce fuori dal grandissimo letargo e ci parla di Mission Impossible. Qual è, il terzo o il quarto? Devo ripetere che non ne so niente, l'ho solo visto, mica me lo ricordo, l'ho visto 10 ore fa. Vabbè, se è così allora parlaci di Men in Black 3. Non so ricordo. Ma che cazzo è un terzo grado? Parlacene. Perché tu vuoi? Sei qui solo per scaldare la poltrona. Sì. Ma in realtà nella poltrona ci siamo noi, cioè lui è da un'altra parte, quindi parliamo io in breve. Stesso sono sempre stato un fan di Enrico. L'hai appena conosciuto. Esatto, ma da quando l'ho conosciuto è stato subito... Cioè un'oretta fa praticamente. Esatto. Un'oretta, 2 ore fa. 1 ora e 40 minuti fa. Fra 3 secondi sarà... No, 2... 1 ora e 40 minuti fa ti ho conosciuto, Enrico, e da lì è stato... Amore, l'ho vista. Esatto. Comunque... Visto che Enrico si rifiuta in alcun modo di parlarci di qualunque film perché... Non se li ricorda. Perché è un poltrone oppure non se li ricorda. Commento? No. Perfetto. Parliamo... Cioè, immagino che cosa ne uscirà alla fine. Di parliamo di roba. Mission Impossible 4. Io l'ho visto... No, io l'ho vista scrocco dalla tizia davanti nell'aereo. Senza ecco. Volume dopo. Ecco, allora stavo male, non ne avevo voglia di che dire. Che si può dire? È il solito Mission Impossible. Io che bello, comunque interessante, pieno di suspense, però è un film d'azione, quindi e quindi... come cattivo hanno messo il Mikael Blomkvist, visto degli uomini che credono le donne svedese. Comunque è un film molto interessante, molto carino, certo un film d'azione, però almeno per essere un film d'azione è un bel film. Soprattutto pazzesca la scena. La scena... Ah, l'abbiamo capita, no? Il coso di Dubai, o come ti chiama? Sul grattacielo di Dubai che vi farà venire le vertigini. A me non le ha fatte venire. Minimo Skyfall è molto più bello, però. E adesso, infatti, visto che il caro Osvaldo ci rompe le palle, lui ci parla di Skyfall. No dai, dato che siamo in tema di agenti segreti e cose così, perché non parlare della nuova avventura di 007, stavolta interpretato per la terza volta da Daniel Craig, diretto da Sam Mendes. Sam Mendes, per chi non gli viene in mente adesso, gli dico giusto un film così, American Beauty, se vi dicesse qualcosa, sapete di chi stiamo parlando. Allora, in questo Skyfall è stato fatto un tentativo molto pregevole di unire i fan di James Bond, perché come sapete Daniel Craig ha fatto scalpore perché ha diviso tutta la critica. C'è chi dice che è il Bond più realistico di tutti, alquanto d'accordo, però dal canto loro ci sono anche i fan che dicono che non è più il James Bond di una volta, perché e dicono che è una spia russa, non ci sono più i gadget tipo il profumo che spara fuoco, non c'è più la penna con il coltellino dentro che esplode quando canti God Save the Queen, ma semplicemente è un uomo semplice che va a sparare i terroristi e basta. A me sinceramente piace di più così, perché sono un po' un amante del realismo nei film di spionaggio ed azione. Però non sono l'unico fan di James Bond. In questo Skyfall è stato fatto un tentativo di unire appunto i fan del nuovo James Bond con i fan del vecchio. È stata reinserita la Aston Martin storica dei film di James Bond, stavolta con delle mitragliatrici poste nelle ruote, quindi ritornano i gadget un po' alla Bond retro. Ottima Judi Dench, sempre nel ruolo di M, che ricopre dall'epoca di Pierce Brosnan. Purtroppo non lo farà più, chi ha visto il film capirà perché. E verrà spoiler! Invece abbiamo nel cast delle aggiunte, come ad esempio abbiamo Ralph Fiennes, un altro grande attore, i più lo conosceranno per Voldemort, ma altri sicuramente lo ricorderanno per film un tantino migliori, tipo Schindler List o Il paziente inglese. E poi che altro dire di Skyfall? Buona colonna sonora, ottima intro opening di Adele. No! Skyfall. Tra l'altro la si sente dappertutto, anche chi non ha visto il film è piaciuta un sacco. A me è piaciuta un sacco per il film, non per altro. E che altro dire? Ottimo film d'azione, ottima regia, buona recitazione, effetti speciali, esplosioni, sparatori a go-go, è un ottimo film di James Bond. Secondo alcuni addirittura il migliore. Per me si è posto alla seconda posizione dei film di James Bond, perché il mio preferito è pur sempre Casino Royale, il primo di Daniel Craig. Passiamo a qualcos'altro. Ah, siamo in tema Marvel adesso. No, oh, avevi rotto le scatole per parlarne, quindi adesso ci parli di The Avengers, poi diremo io e la signora Jules le nostre Jules. Opinioni. Jules. Magari... Tra l'altro, Henry, tu l'hai visto The Avengers? Sì. Avengeramente parlando, codesto film che è appena stato nominato agli Oscar del 2013, questa cosa è molto lollosa, per i migliori effetti speciali. Effetti speciali abbastanza discutibili, dato che la trasformazione da Bruce Banner in Hulk forse era anche meglio nel 2003. Bah. Ang Lee. Sì. Comunque, torniamo su The Avengers. Su The Avengers abbiamo finalmente i Vendicatori Uniti. Abbiamo un film dove ci sono Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man, Chris Evans che fa Capitan America, poi c'è Mark Ruffalo che fa Hulk. Quel Chris Hemsworth, se si può considerare attore, che fa Thor. Guarda, neanche a me è piaciuto ma Thor. In questo film Thor è inutile. In The Avengers Thor è inutile, ingombrante, non sa recitare ed è antipatico quando Hulk gli dà un cazzotto in faccia o goduto come non so cosa. E non c'entra un cazzo con la trama. Quando Hulk gli ha dato un cazzotto io godo come in un porno. Io avrei preferito vedere al posto di Thor Spider-Man. Ottima Spider-Man. Scarlett Johansson, per citare Matioski, tette per la vedova nera. Che non sapevo, in effetti è davvero un vendicatore lei. Ma sì, la vedova nera. Fa parte dell'universo Marvel. Sì. Assolutamente. Questa è Natasha Romanoff, l'avevo già sentito questo nome, ma non credevo che fosse una persona. Sì, all'inizio, quando c'era il tipo tedesco. Il tipo russo. Russo. Uguale. Tedesco, russo. Romanoff, tipico nome bavarese, tra l'altro. Comunque, questo film è piaciuto a molti per Iron Man, a me sinceramente no, perché Iron Man, io sono uno dei pochi a cui l'Iron Man di Robert Downey Jr. non ha coinvolto più di tanto, perché lo vedo un po' patetico. Come parla, sembra uscito da un film di Tarantino, però vabbè. questo falso charme molto macchiettistico da miliardario rincoglionito. Peggio di Bruce Wayne questo, però. A molti è piaciuto, quindi io non mi dilungo oltre su di lui. Capitan America, purtroppo, idealmente dovrebbe essere... Assieme ad Iron Man, la personalità più di spicco dei Vendicatori in questo film è un coglione. Capitan America. Io avrei voluto picchiarlo da mattina a sera. In teoria, ho goduto quando c'era Iron Man nella centrifuga dell'aereo. Sì, ma in teoria, Capitan America dovrebbe essere il figo del momento. In questo film è un cazzone, senza motivo. L'unico reso bene dei Vendicatori forse è Hulk, a parte per la trasformazione un po' farlocca. E si vede benissimo, ma alla fine Anzi, sapete chi mi è piaciuto in questo film? In questo film mi è piaciuto Samuel Jackson, perché Samuel Jackson fa Nick Fury e l'ha fatto veramente bene. Quello è una lancia spezzata in favore a... Onestamente la voce non mi piaceva un granché. Vabbè, io l'ho vista in lingua originale, tagliamo la testa al toro. E poi chi altro c'è? C'era Loki, Loki mi è piaciuto, anche lui se la cava. No, c'era... Buon cattivo. Occhio di falco. Barton. Okay. Sì, balena Barton, occhio di falco, lancia le frecce, esplodono tutti. Bellissima la scena dove Hulk pistita Loki, quasi da Oscar. Voi siete inferiori, io sono un dio. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Un dio gracile. Volete dire qualcosa? Ma niente, anche a me comunque come film, dai, piaciucchiato, non è che sia tutto quanto questo capolavoro. Ho sentito gente su Facebook dire che è il film più bello del 2012. Ma non diciamo stronzate. Axel, qualcosa da dire? Sì, riferimenti etici, per esempio Iron Man, che quando dà un passaggio a... Occhio di falco, lo chiama Legolas. LOL. È vero. Fa Napoli, è vero. Che troll. Però in questo film non è che sia stata una gran cosa. In Gwyneth Paltrow posso capire nel talento di Mr. Replay, ma qui è una macchia senza arte né parte. Oppure... Vuoi parlare di Spider-Man? Parliamo di Spider-Man. Parla di Spider-Man allora. Siamo in tema Marvel. Parliamo allora di Spider-Man. Forza, com'è questo reboot dell'Uomo Ragno? Allora, com'è questo reboot dell'Uomo Ragno? Me lo ricordo perché c'è Emma Stone che fa... Esatto, l'hai visto? No, ho visto qualche cosa. Ha visto qualche cosa, allora... Anche questo film ha diviso i fan. Come James Bond, Spider-Man divide sempre i fan. Perché c'è chi dice: ah, questo film è molto più bello della trilogia di Raimi perché Tobey Maguire non sa recitare. Questo lo posso anche accettare, cavolo. Che Tobey Maguire non sa più recitare è vero, perché col doppiaggio italiano sembra anche bravo. Io l'ho visto in lingua originale, non potete capire come parla quell'uomo. Altri invece dicono: no, non è vero, era molto meglio la trilogia di Raimi, l'unica vera originale. Vi dirò veramente cosa ne penso io. Bah, io forse sono più nel versante raimico, nel senso che a me è piaciuta di più la prima trilogia, forse perché anche è una parte fondamentale della mia infanzia. Però non è male questo nuovo episodio. L'unica, una delle cose che non mi è piaciuta però... lo devo dire, è Peter Parker, perché Andrew Garfield, io lo considero un ottimo attore emergente per film come Non lasciarmi, The Social Network, Parnassus. Lui è bravo, lo sappiamo. Cos'è che faceva in Parnassus? Parnassus, lui era lo zeraccone burdo del vecchione. Ah, sì, ho capito. Quest'attore non è male, però io... quando stavo guardando The Amazing Spider-Man mi stavo chiedendo se soffrisse della sindrome di Asperger, perché il modo in cui l'ha interpretato Peter Parker, purtroppo qui non c'è il video quindi non posso gesticolare il suo atteggiamento. Comunque sapete che ogni volta che sappiate che Andrew Garfield, facendo la parte di questo sfigato nerd però super intelligente, sembra un autistico. Perché... mi ha detto che... è vero che c'è una scena dove c'è lui che fa la formula matematica e c'è la musica di A Beautiful Mind? Mi sa di sì. Sì, dai! Sì, assolutamente sì, è vero. Però, in varie scene, lui quando parla con chi che sia, forse anche quando parla con suo zio... non riesce mai a guardare in faccia la gente. Sì, ma ragazzi, questo si stropiccia le mani, si incobisce, inizia a balbettare ogni volta. Anche quando esce con la ragazza non riesce a guardare. Ho paura, non voglio parlare, aiuto. A parte quello, basta. L'unica cosa che non mi è piaciuta del film è semplicemente il fatto che... no, anzi, non è l'unica cosa. Cosa cazzo sto dicendo? Ce ne sono altre di cose brutte. Però, questa è la peggiore. La peggiore è questo Parker Down. Le altre cose... le altre cose sono le seguenti. Uno, il mio personaggio preferito manca. Venom? No, non è Venom. Ma non c'entra niente se manca Venom. Però, questo film hanno malauguratamente scelto... di ambientarlo tutto nella scuola. Nel periodo in cui Peter Parker faceva il liceo. Ok. C'è un personaggio importante nel liceo, ovvero l'unico suo amico, la persona che lo difendeva, che è Harry Osborn. In questo film Harry Osborn non esiste. Ah, non c'è? Certo che no. C'è il figlio di... Il figlio del Goblin. Di Ozzy. Di Ozzy naturalmente... Osborn. Diciamo ok, quindi adesso, visto che il caro Fabio ci deve lasciare... Sono precario. Ci parla di tutti quanti gli ultimi film di cui ci voleva parlare. Aspetta, ero ancora parlando dei difetti di Amazing Spider-Man. Parla allora. Vabbè, dicevo, manca Harry Osborn, però siccome la Oscorp, l'azienda dei criminali malvagi dell'Uomo Ragno... È un tema fondamentale in questo film. Voi direte, sicuramente il padre di Harry ci sarà, Norman Osborn, il Green... Non è vero, non ci sarà manco di striscio. E in questo film gli unici personaggi sono Peter Parker, la ragazza, la zia, lo zio, il cattivo lucertolone. Fine. E il tizio indù che si vede in due scene che minaccia il lucertolone. Fine. E basta, in fondo è comunque un film sufficientemente buono. Passiamo a L'Hobbit. Allora, adesso hai da parlare di 3-6 film. Ne vuoi lasciare qualcuno oppure ne parli di tutti? Vediamo. Allora, L'Hobbit. Parliamo dell'Hobbit. Questo L'Hobbit è uno dei grandi film di successo di quest'anno, ha fatto un grande successo. In Italia forse è il secondo venduto dopo I Due Soliti Idioti. Oh, vabbè, stendo un velo pietoso, però... questo film a molti è piaciuto, a me però ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, perché mi aspettavo qualcosina di più. Non mi aspettavo innanzitutto un cambiamento radicale di stile che ha fatto... Peter Jackson, molti mi diranno, ma il libro è diverso, era molto più per bambini. Sì, ma dai, qui stiamo toccando un cambiamento fondamentale. Per me, Il Signore degli Anelli aveva un tema epico. Questo invece non è più epico, questo ormai è diventato fiabesco. Cioè, siamo passati dall'Iliade a The Legend of Zelda. Dire cose che di cui ti potresti pentire, va bene? È così, punto. A parte per alcuni infantilismi, alcune scene che ricordano più un Pirati dei Caraibi che un Signore degli Anelli. Ti stai ancora una volta inimicando tante persone dicendo queste cose. No, non è vero. Vero Giulia? Vedi ad esempio una scena dove sconfiggono quest'orco, appena lo infilzano. Se n'è andato. Appena quest'orco viene infilzato, le sue ultime parole sono penso che sarò sconfitto. No, sto ancora registrando. L'Hobbit è tutto qua, non c'è... Ah, c'è da dire che Martin Freeman come protagonista è molto meglio di Elijah Wood che faceva Frodo, perché a me Frodo non è piaciuto per niente. Invece, questo Bilbo Baggins non mi è dispiaciuto affatto. Anche Gandalf, sempre Ian McKellen, bravissimo. Questa volta doppiato da Gigi Proietti, perché poverino Gianni Musi è morto. E quindi è stato doppiato da Gigi Proietti, grandissimo. A me è piaciuto forse anche di più del suo vecchio doppiatore. E del tutto pregevole la scena di Sméagol in questo film, che mi ha ricordato i bei vecchi tempi. E qui mi posso fermare, posso concentrarmi più sulla vera ciccia dei film che ho visto, dai. Passiamo alla Talpa. Allora, la Talpa... È un film che è una via di mezzo tra 2011 e 2012, perché in fin dei conti questo film è stato fatto nel 2011, ma è uscito ai primi giorni di gennaio. Questo film è un film di spionaggio molto diverso dall'idea di spionaggio che ha la gente di solito. Di solito la gente, quando parla di film di spionaggio, si aspetta un film dove c'è un agente segreto che ammazza tutti perché è più bravo, tutte queste cose d'azione, molto alla Mission Impossible o James Bond. Questo film invece è una cosa completamente diversa. Questo film è finalmente un film di spionaggio intellettuale, nel senso che questa volta i protagonisti, più che altro il protagonista Gary Oldman, non è un uomo d'azione, ma è un uomo di ingegno, un uomo un po' come un Hercule Poirot potrebbe essere. Uno Sherlock. Esatto. Non uno Sherlock alla Guy Ritchie, è uno Sherlock alla Conan Doyle. Allora... Uno Sherlock Sherlock. In questo film siamo, nella Guerra Fredda, siamo nella Londra degli anni 70. E la storia parla un po' di questo ex agente dell'MI6 che viene incaricato dal Ministero del Tesoro di trovare una talpa dei sovietici che si aggira tra gli altri ufficiali dell'MI6 stesso. E alla fine, vabbè, lui dopo tante indagini riuscirà a trovare la soluzione grazie solamente al suo intelletto e alla sua astuzia e non a nessuna acrobazia. In questo film non ci sarà neanche una scena d'azione. Meno male. Ma sarà tutto basato sul dialogo e sulla recitazione. Cioè, questo film vanta un cast pieno di attori, da Gary Oldman, che è il protagonista, a chi c'è? C'è Tom Hardy, c'è John Hurt, il vecchio Ollivander di Harry Potter, c'è Colin Firth, c'è... vediamo chi c'è, c'è, come si chiama, c'è, Mark Strong c'è in questo film. Chi è Mark Strong? Mark Strong è un attore di origine italiana che ha fatto film come Kick-Ass, dove faceva il capo dei mafiosi, poi ha fatto il cattivo del nuovo Robin Hood, poi ha fatto il Lord Malvagio del primo Sherlock Holmes, poi ha fatto il Lord Blackwood, esatto, e poi ha fatto Sinestro in Lanterna Verde. Poi ha fatto un romano in... come si chiama quel film? In The Eagle, vabbè, varie cose così. È un attore che sta facendo successo in questi tempi moderni. E buon cast, buona recitazione, buona regia e ottima ottima... cosa stavo per dire? Fotografia, perché questo film ha dei colori cupissimi. E voi immaginate che già Londra di suo è uno dei posti più cupi del mondo, perché il sole lì non esiste. E la fotografia contribuisce a renderlo un luogo quasi gotico e oscuro. Questa cosa mi ha molto intrigato, molto emozionante. Consiglio questo film a tutti di vederlo, con la premessa che è un film abbastanza complesso e pesante. Ci vuole un alto tasso di concentrazione e pazienza per vederlo, perché non è un film molto veloce, è un film che scorre con il suo tempo, è un film complesso, eccetera eccetera eccetera. E adesso passo a Sanct. È un film che parla... di un tizio random. Vabbè, Sanctum parla di grotte sotterranee, di questi qui che fanno una spedizione. All'inizio sembra un film di avventura, poi diventerà un film addirittura dai toni survival, di questa lotta alla sopravvivenza, questa catastrofe, la grotta viene allagata, loro devono riuscire a fuggire attraverso territori che non sono mai stati esplorati prima. Un film abbastanza emozionante, sebbene sia stato fatto quasi interamente da un cast quasi amatoriale, a parte Ian Gruffudd, che qualcuno forse ricorderà per il ruolo di Mr. Fantastic. Però no, allungabile. In sostanza è un film abbastanza bello e scorrevole per passare una bella serata. Io l'ho visto ieri per la prima volta e non mi è dispiaciuto per niente. Andando avanti, in breve vi parlerò di Acab. Film anche questo visto ieri. Come film hai visto ieri? 40.000. No, aspetta, ne ho visti tre. Ieri ho visto Gorky Park, Acab e Sanctum. Gorky Park però non ve ne parlo, perché è un film degli anni 80, quindi non è il caso. No, se già sei... è la playlist del 2012, quindi non penso. Comunque, Acab è un film italiano. Io non pensavo che il cinema italiano fosse ancora ad alti livelli. Questo film infatti mi ha stupito e non capisco perché non siano tutti così i film italiani e ci sia ancora gente che sfonda come Neri Parenti e come I Soliti Idioti, piuttosto che gente seriamente brava. E questo è un film che parla della polizia. Acab, il titolo è un acronimo, significa All Cops Are Bastards. È un film che parla del reparto della Celere. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando della polizia antisommossa, ovvero la pula che prende a manganellate i manifestanti. È un film che parla dell'argomento con estremo realismo e anche con una grande imparzialità, anzi in alcune parti sembra anche essere dalla parte della polizia, cosa che il film, dire il vero, non è, perché in fin dei conti non è dalla parte di nessuno. È un film che tenta di guardare la realtà che noi italiani stiamo vedendo con occhi imparziali, con occhi semplici. Non è un film di parte, facciamo. C'è un ottimo Pierfrancesco Favino in questo film che fa la parte appunto del poliziotto manganellatore bastardissimo continuamente in tribunale per aggressione che spacca i denti ai tifosi del Lazio. E anche questo film consiglio a tutti di vederlo, consiglio di vederlo soprattutto a chi mal considera il cinema italiano dei giorni nostri, perché questo film ha ancora tanto da dare, come il cinema italiano ha ancora qualcosa che purtroppo in questi anni non sta emergendo, ma che c'è sempre di sostanza. E andando avanti... È un monologo praticamente quello che stai facendo. Sì, è un grande monologo, un grande gentile monologo. Raccontaci. Adesso vi racconterò di un altro film che mi è piaciuto tanto, che si chiama Uomini che odiano le donne. Uomini che odiano le quello donne... Quello di Fincher? Assolutamente sì, quello di Fincher, ovvero il remake americano, perché di questo film è stata fatta una trilogia svedese. Io ho visto il primo svedese. Ah, bravissima. Ce ne potrei parlare. Che non me lo ricordo. Che conta però anche un remake americano. Allora, questi film sono tratti da una trilogia di libri di Stieg Larsson, che purtroppo non ci ha guadagnato niente, anche se sono un grande successo, perché è morto subito dopo aver consegnato il manoscritto perché ha avuto un infarto. Guarda caso. I suoi figli saranno felicissimi per l'eredità. E anche i nipoti, immagino. Anche i nipoti. Comunque, il libro, se vi interessa, lo sto leggendo adesso. È veramente molto bello, come è veramente molto bello il film americano. Anche i film svedesi non sono male, ma non li ho visti bene, quindi non ve ne parlo. Vi parlerò. La protagonista mi sembra sia Noomi Rapace. Noomi Rapace, sì, brava. Uomini che odiano le donne, per chi non lo sa, tra l'altro ha avuto una nomination all'Oscar alla migliore attore protagonista. Alla migliore attore protagonista. Alla migliore. Questo pezzo lo cancelliamo. Alla migliore attrice. Tranquillo, tranquillo. Cancellatelo, altrimenti vi squarto. Questo va nei bloopers più che altro. Alla migliore attrice. Cioè, di 2 ore almeno 1 ora e mezza sono bloopers. Guarda. Appunto. Sei una bravissima attore. Comunque, alla mio figlio Fernando diventerà un ottimo ballerino. Dicevamo, in questo film nel cast ci sono anche Daniel Craig, Christopher Plummer, Stellan Skarsgård, mazzi di gente figa. È un film di denuncia sulla violenza sulle donne, è anche un thriller, è anche un sacco di cose. Guardatelo, il tempo stringe, devo scappare, ciao a tutti. Di Prometheus. Alla prossima svaldata di Prometheus non vi dirò nulla perché me ne sto andando, ciao a tutti. Allora, siamo tornati. Osvaldo se n'è andato. E Enrico invece è caduto nel cesso ormai. No, ci ha chiuso il telefono in faccia. Grazie, sei tantissimo gentile. Quindi, insomma, adesso vedremo un pochettino di cavarcela noi due, perché comunque siamo molto più celeri quando siamo assieme. Ovviamente l'ha copiato. Ritornati dopo. Quindi, che Osvaldo ci ha rotto le orecchie, non sa. E dopo naturalmente il fatto che lui non riesce neanche a quanto pare aprire una porta con un pulsante, se questo pulsante è leggermente nascosto. Allora, questo inoltre, bisogna ricordare che Enrico è cascato nel cesso. Cioè, ci ha chiuso il Skype in faccia, quindi... Ma si comunque, niente, adesso cominciamo, siamo noi due, quindi... Siamo solo giù, Fred. Parliamo di qualche film che comunque ci è piaciuto quest'anno, tanto sono pochi, dai, ne mancano pochi. Allora, vabbè, ne parlo io brevemente, a me è piaciuto comunque. Sì, anche a me. Allora, citiamo un paio di film italiani che abbiamo visto, che sono La Bella Addormentata e Il Romanzo di una Strage. Allora, il primo come No, aspetta, il secondo è peggio del primo. Il secondo è veramente brutto, noioso, veramente. No, cioè non è noioso per i fatti. È che noioso narra, per come è fatto. Come viene narrato. Ma cioè, praticamente l'hanno fatto sotto forma di documentario. Tarododan. Facevano giorno 1, tarododan, schermata nera con scritta rossa. Esatto, tipo, non so. Faceva. Se avete 15 d'aprile. Se avete presente la parodia che hanno fatto i Simpson di Shining, dava un pochettino quell'effetto di martedì, lunedì. Ha fatto nel tempo? No, è un mio errore. comunque niente, Romanzo di una Strage è veramente un film che non mi è piaciuto per niente. E comunque sì, siamo d'accordo su questo. Immaginatevi la scena, una combricola di 7 ragazzi che vanno a vedere questo film, non è finita bene. Io ero... l'unica cosa positiva era commentare il film facendo battute a sproposito, giusto ovviamente, per far ridere. Mentre invece La Bella Addormentata è un film un pochettino più bello, sono sbagliato, di Bellocchio, giusto? Sì, eravamo tre ore cercando di capire come si chiamava il cosa, te lo ricordo. Bernardo. No, tra tutti i nomi, ma proprio. Perché ci sono due registi che si chiamano Bellocchio di cognome, quindi... Ammetto di essere ignorante per quanto riguarda Bellocchio. Comunque, il film mi è piaciuto un pochettino di più rispetto al romanzo di una strage. Però anche qua alle volte è troppo calcata la mano in certi Cioè, punti. Voglio dire, è un film che parla... innanzitutto ricordiamo, il romanzo di una strage parla della strage di Piazza Fontana. Qua invece, nella Bella Addormentata, è un film un pochettino più attuale, dove si parla dell'Italia al tempo di Eluana Englaro. Ora, sicuramente è un argomento molto scabroso, un argomento su cui tutti quanti hanno un pochettino la loro opinione. Prendendo oggettivamente questo film, è un film abbastanza mediocre, insomma sufficiente, diciamo. Niente di eccezionale, niente di veramente brutto. Comunque è un film accettabile che sinceramente a me è piaciucchiato. Poi uno di quei tipi di film che vuole anche un pochettino essere buonista, presentando anche dei personaggi un pochettino... anche troppo stereotipati, tipo per esempio la madre di una persona che ormai è morta cerebralmente e questa madre comincia a snocciolare rosari su rosari, addirittura parlando anche in francese. Sono sicuramente... Per motivi ignoti, a noi ignoti. Perché era francese, credo. No, era italiana, però parlava in francese per motivi ignoti. Comunque... La cosa più odiosa, non so se vabbè, tanto chi se ne frega, chi lo va a vedere questo film? Sono noi poveri idioti. Esatto, perché cioè, non c'era molto da vedere. No, comunque niente, un film... La cosa più allucinante è la storia tra due dei protagonisti che... Ok, ci conosciamo, è lo stesso giorno, finiamo a letto insieme e sì, ti amo da impazzire. E soprattutto ti ho conosciuto perché tuo fratello mi ha tirato una bottigliata in faccia. Yeah! Ora, sinceramente, veramente un film strano, però non del tutto da buttare, assolutamente. Mentre invece adesso parliamo di un qualcosa di un pochettino più mainstream, ovvero Men in Black 3. Aspetta, ma la scena eravamo io... Fred e Alex che ci ha mollati. Caccato nel cesso. Siamo andati a vedere il film. Eravamo all'ultima fila, se non sbaglio, posti centrali. Noi stavamo facendo casino. Ho detto, oh, che figata! Ma ovvio, come qualunque combriccola. E mi ricordo la scena di queste due vecchiette davanti a noi. Una si gira. Shh, non si sente l'alieno che sta vomitandoti addosso. Terzo, naturalmente, della saga di Men in Black. Il primo, sinceramente, io l'ho adorato di Men in Black. Il secondo un po' meno. Il terzo, secondo me, è proprio forse anche il più bello della serie, perché... Si scoprono molte cose del passato di K e di J. Eh beh, perché è ambientato, diciamo, si sa che finché... Per salvare K si ritorna... Bisogna andare dietro nel tempo. E questa è una cosa che a me, sinceramente, piace tantissimo. Questi viaggi nel tempo sono molto interessanti, secondo me. Cioè, ero tre ore col peso, adesso che ho ripreso l'iPod ho fatto... Aiuto, una mano. No, vabbè, poi... Interessante. Men in Black, Cribbio, cosa volete di... Poi vabbè, chi se ne frega degli effetti speciali. Cosa volete di più dalla vita? Un Lucano? No, grazie. Poi allora, Sherlock Holmes 2, Osvaldo ha detto che non gli è piaciuto. Io sinceramente... il 2. Ah. Io sinceramente, a me sinceramente è piaciuto. Non era a livello del primo, sinceramente. Esatto, non era a livello del primo. Comunque era interessante, aveva dei personaggi molto, molto interessanti. Si vedeva il matrimonio di Jude Law, di Watson. Inoltre appare per la prima volta finalmente il professor Moriarty. No, comunque... Comunque niente, a me è piaciuto tantissimo. Ah, c'era Naomi Rapace! Poi vabbè c'è la zingara Naomi Rapace. Appare finalmente Moriarty, la grandissima arcinemesi di Sherlock Holmes. E attualmente il finale, non ve lo posso dire, comunque è veramente qualcosa di realmente interessante. Poi lascio spazio libero a Giulia perché ci deve parlare di Capodanno a New York. Illuminaci. Allora, la scena è che io volevo andare a vedere questo film quando è uscito in Italia. Il problema è che il mio padre, come gli ho detto, papà, andiamo a vederlo. Ho detto, va bene. Spero non mi senta, dimmi che ho chiuso la porta. Sì. E alla fine non ci sono mai andata a vederla al cinema. Ho dovuto vederla in aereo mentre andavo a trovare questo drollo che era fuori. No, vabbè, volevo soprattutto vederlo perché c'era Lia, Michelle, Sarfatti, Cribbio, che tu non hai minimamente idea di chi sia, vero? Lia Michelle non è quella di coso. Vabbè, è... bravo. Praticamente è Rachel di Glee. R-O. Non ci posso fare nulla. No, vabbè, praticamente narra le vicende di vari personaggi il giorno di Capodanno e, diciamo, sono più o meno, si intrecciano a vicenda, c'è tutta, diciamo, tutti i preparati, c'è una che è la giornalista che deve fare il servizio e quindi deve prepararsi per, diciamo, per il servizio di fine anno, poi c'è una che fa, che è parte del catering di un ristorante, che era l'ex fiamma di un cantante che poi si ritrova, eccetera, eccetera. È un tipico film americano, vabbè, è carino, niente di che, l'ho visto solo per la Michelle, se non si fosse ancora capito. Che... vabbè, parlaci anche allora del prossimo film che l'hai guardato solo tu, mi sa, Gli Immaturi di Viaggio. Ah, e beh, il seguito degli Immaturi, il primo l'ho visto anch'io ed era comunque abbastanza bellino, carino, dai, con... tipica commedia italiana, naturalmente con Paolo... guest star Luca e Paolo, che sono sicuramente tra i miei attori italiani comici preferiti. Contemporanei preferiti. Perché vabbè, perché Camera Caffè è un qualcosa che mi ha fatto crescere. Era molto bello in realtà. No, questo Caffè. Praticamente Immaturi il Viaggio sarebbe proprio come ogni liceale, il viaggio per dell'ultimo anno, e vanno in Grecia, la combricola del film precedente, cioè gli Immaturi, e ne succedono di tutti i colori, praticamente più o meno se ne stanno tutti per conto loro. Ovvio. Perché ormai sono anche cresciuti, non sono più bambini, e ragazzini che bambini. E alla fine finiscono anche in carcere tutti, tranne una che era quella che aveva realmente commesso il reato, perché aveva... perché... chi, Eleonora? No, Eleonora finisce in carcere e si scopre anche che è malata di cancro. Oh, e Paolo si innamora di lei. Allora. Era già innamorato di lei. Sì, lo so, si rinnamora. Luke, per farsi le ragazze, dice di essere sposato, di avere un figlio, quindi... diciamo, ci sarà il problema Paolo ancora. Luca si innamora di questa ragazza, però c'è anche l'altra, la ragazza che si era fatta in Italia, quindi che viene a trovarlo in Grecia, è un casino. Poi alla fine finisce tutto bene e torna in Italia. Quindi finisce un pochettino a essere un cinepanettone, in parte. Più o meno. Vabbè. The Help. Allora, quindi il prossimo film invece è, vabbè, The Help, l'ho visto in America. Io l'ho visto su Sky. Quando ero in America. Allora, è un film che parla come al solito del problema della, come si può dire, del razzismo contro le persone di colore. Negli anni 60 più o meno. Vabbè, negli anni 60, di conseguenza è sempre un argomento molto scabroso. Ora, comunque, questo film è un film sicuramente molto pregevole, molto, molto bello, molto... interessante. No, nella finale ho pianto, sembravo che mi avessero... ecco, allora, è un film sicuramente avuto. Molto toccante, molto... per far riflettere, diciamo. È un film che fa riflettere sicuramente sui soliti problemi esistenziali, su cosa può essere definito una persona, un uomo, insomma, e così via. E niente, comunque, non raggiungendo magari i livelli di altri film, per esempio... per citarne uno su tutti che a me è piaciuto tantissimo di questo argomento, Il buio oltre la siepe, non raggiungendo magari... non ci passi. Non raggiungendo quel livello, è comunque considerabile come assolutamente un bellissimo film, con una trama veramente molto bella, molto toccante e con un finale veramente strappalacrime, che è un finale in parte molto negativo, che però in realtà capisce che c'è sempre spazio per la speranza, quindi la solita bella... ah, my feels! E poi ricordiamo la scena clou dove c'è questa... la protagonista che fa la torta con la propria merda. Non sì. Sto scherzando, guardatevi il film e poi vedrete un pochettino. Su, da fare ai vostri nemici ogni volta che vi capita. Ogni volta che vi capita nel cazzo, ovvio. Allora, parliamo di un film che abbiamo visto la settimana scorsa, comunque... domenica scorsa. È uscito... che tra l'altro ci eravamo prefissati di vedere l'ultimo di Geoffrey, ti chiami quello che fa Barbossa, non mi viene adesso il nome. Perché, poi io ho sbagliato a leggere l'orario, in realtà iniziava 2 ore dopo. Eravamo proprio in tempo per l'inizio di Cloud Atlas, mancavano 8 minuti. E io in effetti volevo vederlo perché non e anch'io, era da 20 anni che volevo vederlo. Quindi è stato un caso fortuito per vederlo. Comunque, cosa bisogna dire su Cloud Atlas? Cloud Atlas è un film assolutamente bellissimo. È praticamente una serie di 6 racconti che sono uniti da un unico filo conduttore e con gli attori che in realtà sono sempre le stesse persone, però magari nelle varie epoche o sono più vecchi o sono magari gli antenati, i pronipoti e così via. Di conseguenza c'è un pochettino tutto quanto il vario argomento del destino, predestinazione, e inoltre vabbè, fatto dei fratelli Wachowski che si sa sono famosissimi per la trilogia di Matrix, che quindi sono dei pazzi furiosi un po', diciamo. Sono un po' dei pazzi furiosi comunque. È un film molto bello, inoltre è come se fossero praticamente 6 generi diversi, perché troviamo comunque il racconto di mare, quindi di conseguenza con barche, parliamo comunque del XIX secolo, credo. Sì, era 1860. Quindi del XIX secolo. D'altra parte si parla anche di non so che, però c'è per esempio anche il thriller ambientato negli anni 70, il film simile in qualche modo anni 30, che c'è il film simile ad Amadeus, drammatico. Il film drammatico simile in qualche modo, simile comunque per quanto riguarda piccoli dettagli ad Amadeus. Possiamo dire che praticamente inoltre ogni storia ha un tema principale. Per esempio, nella prima è diciamo un po' il razzismo verso gli schiavi, poi nel secondo è il razzismo contro le persone omosessuali o comunque diverse dalla massa, poi diciamo quello nel 2012 che è lo demenza senile. Esatto, la parte del 2012 nel nostro tempo è praticamente la parte comica, che bello, dobbiamo ridere tutti quanti. E poi possiamo dire che nel c'è il futuro dove tutto quanto è andato a quel paese. No, c'è il futuro fighissimo. C'è il futuro distopico in cui tutto è andato a quel paese, le corporazioni contano tutto, e un futuro ancora più futuro dove si è tornati più o meno alla dove pietra. Si è tornati all'età della pietra. E in cui comunque è un racconto circolare in cui dove non parlare molto bene l'italiano, l'inglese. No, comunque è un film molto bello, con appunto 6 generi differenti, molto interessante, quindi guardatelo, che è veramente un film che merita, nonostante non sia un capolavoro estremo, è sicuramente un qualcosa di bellissimo. Poi la cosa bella è come, diciamo, i vari personaggi finiscono passano qualcosa per ritrovarsi. No, oltre a quello, ma passando da una storia all'altra possono passare dalla parte del bene o del male, a seconda, per esempio Tom Hanks, che per esempio nel primo racconto è cattivo, poi negli anni 70 è buono, poi ritorna e comunque buono, tutti quanti ritornano cattivo, poi buono, poi tutti quanti ritornano magari anche a fare delle piccole parti, comunque sono sempre presenti come attori, e questa è comunque una cosa molto interessante, devo dire. Poi, comunque, è un film che dovete vedere, quindi guardatelo. E poi, perché che ne so, forse non te ne sei neanche accorto, ma nel futuro Neo-Seul, c'è la scena in cui c'è un dottore con la tipa cinesina, coreana, e Halle Berry travestita da uomo. Non l'avevo notato. Sì, infatti ti fa anche vedere come possono, come non interessa sesso, perché diventano maschio, femmina, ibrido, qualunque cosa vogliate. Comunque, molto interessante, sicuramente un film a sé, ma merita di essere visto. Quasi amici? Va bene, parliamo di Quasi amici. Il ragazzo di colore trollore, quella è la cosa più... Allora, è un film francese. Che è una capolavoro, cioè molto bello. È un film drammatico che parla di una storia vera, solito appunto film tratto da una storia vera, dove si parla praticamente del rapporto tra una persona che ha la sclerosi multipla, se non sbaglio, e quindi non può muoversi dal collo in giù, e quasi del tutto paralizzato. E ogni qualsiasi battuta del ragazzo di colore è riferita al fatto che non si può muovere. Ovviamente. Oh! Insomma, si scherza molto su questo fatto. E il si tende sempre un pochettino a sdrammatizzare, ma naturalmente in senso buono. È un film veramente molto, molto, molto bello. È un film che fa anche piangere, e anche naturalmente. Non saprei neanche come dirlo. È un film assolutamente fantastico che parla appunto di una storia vera, romanzandola naturalmente, rendendo il tutto quanto molto molto interessante comunque, e vabbè, facendo piangere dall'inizio alla fine. Quindi guardatelo. Allora, parliamo di Paradiso Amaro. Allora, nuovo film, vabbè, nuovo relativamente perché ne saranno usciti altri, comunque l'ultimo film che ho visto di George Clooney, e devo dire che in questo film George Clooney ha veramente dimostrato di saper recitare, perché, cito brevemente la trama, praticamente la trama è, c'è questa famiglia che vive alle Hawaii e George Clooney diciamo che è come se fosse una sorta di pronipote di una principessa delle Hawaii, quindi comunque... possiede un territorio delle Hawaii ed è comunque un argomento ricorrente, ma il punto cardine è la moglie di George Clooney, che è clinicamente morta. Lui scopre a metà film che la moglie è clinicamente morta e a quel punto cerca di riunire la famiglia per poter raccontare a tutti quanti, appunto, per dire a tutti quanti la notizia, per dire che non si potrà più risvegliare, e riunendo la figlia piccola con la figlia grande, la figlia grande racconta al padre che la moglie lo tradiva. Di conseguenza, a quel punto comincia una sorta di mini caccia all'uomo, ma neanche, per poter trovare questa persona che appunto aveva fatto in modo che la moglie lo tradisse e per poterle dire addio per l'ultima volta. Ora, è un film che fa piangere dall'inizio alla fine. C'è il ragazzo di Alexandra, se non sbaglio, che è la figlia maggiore, che tende sempre a sdrammatizzare il tutto, ma finisce un pochettino per essere un po' un coglione. Comunque, un film veramente, veramente bello. George Clooney sa recitare, e qua l'ha ampiamente dimostrato. Inoltre, vabbè, personaggi comunque che... attori che se la cavano più o meno tutti quanti. Una trama assolutamente normale, una trama normale senza mostri da distruggere o roba del genere, quindi un pochettino qualcosa di particolare per gli americani. Comunque un film molto bello, appunto con una trama solida, e soprattutto è un film fatto bene, non è un'americanata per fortuna, è un film fatto bene, un film normale, e questo sicuramente è un grande pregio in un mondo in cui gran parte dei film sono ok, abbiamo dei mostri giganti, vero? Battleship. Oh my god! Ci siamo capiti. Ecco. Allora, non muovere il verso e quindi no, veramente non ho niente da dire, è un film che mi è piaciuto tantissimo, quindi guardatelo. Perché con gli americani con cui sono andato a vederlo invece non è piaciuto, e invece secondo me è un film veramente, veramente bellissimo. Parliamo di Hugo. Hugo. Cosa non è quel film? Ed è quello che io definirei uno dei più grandi, attualmente fatto da Martin Scorsese, quindi Osvaldo ci avrebbe da dire sicuramente qualcosa in merito perché è il suo regista preferito. Sì, è tratto dal romanzo La straordinaria invenzione di Hugo Cabret. Allora, sicuramente è del 2007. Sicuramente non è il migliore regista mai esistito. Comunque, questo film sicuramente lo immortala tra le pagine d'oro del cinema, perché questo film è un vero e proprio omaggio al cinema, a quel mezzo che ha dato sostentamento, appunto, a Martin Scorsese. Di conseguenza è un film bellissimo, assolutamente da guardare, non una bambinata come molti possono pensare, anzi un film per certi versi anche molto maturo, che parla in generale del cinema omaggiando il cinema dell'inizio, ovvero il cinema che era che aveva qualcosa da raccontare. A differenza... Infatti parla anche della storia di Georges Méliès, che è il, diciamo, il secondo più grande, il secondo padre, diciamo, del film, del cinema, dopo i fratelli Lumière, ovviamente. Appunto, quindi è una sorta di come si può dire, del cinema che parla di se stesso, quindi qualcosa di assolutamente molto molto, come direbbe Mattia Ferrari, pregevole. Veramente un capolavoro, guardatelo, perché piangerete, perché è un film veramente anche molto commovente, con tantissime guest star, tra cui Sacha Baron Cohen. Che toro che è Sacha Baron Cohen! Che fa un personaggio molto particolare, che è il controllore. C'è anche lo zio di Harry Potter, Vernon. Che è il tizio che... No, cosa la vendeva? È un tizio che se ne sta lì seduto. Se ne sta là. E soprattutto è un bellissimo film perché crea un vero e proprio cosmo. Ovvero, esiste un piccolo mondo che è la ferrovia. O nel senso, la stazione ferroviaria. Dove tutto quanto è un piccolo ecosistema particolare. Con personaggi che hanno un pochettino relazioni tra di loro. E quindi vediamo un pochettino tutto quanto questo... come si può dire? Relazionarsi dei personaggi, che sicuramente è una cosa bellissima da vedere. Quindi assolutamente qualcosa da strapparsi i capelli dalla gioia, sinceramente. Quindi allora, parliamo anche di un altro film che in molti hanno veramente snobbato, ma sinceramente a me è piaciuto tantissimo e credo anche alla sì. Qui presente. Parliamo di Batman The Dark Knight Rises. E allora, diciamo il film in inglese perché tradotto in inglese non fa cagare. Il ritorno. Ma quale ritorno? Risorge al limite. Comunque. Il risorto. Il risorto. Il risotto con le erbette. Spero che non... Questa la taglio. Spero che non l'abbiano fatto per non parlare della risurrezione di Cristo, cavolo. Oddio. Dio mio, sarebbe una cosa davvero pessima. Patetica. Comunque, ultimo film di... No, che regista. Ultimo film. Pagina errando. Ultimo film di Christopher Nolan. E sinceramente Christopher Nolan, dopo questo film... Oh. Si è sicuramente ingraziato tante di quelle persone che non vi immaginate. Guardate, questo film è veramente, veramente, veramente bellissimo. È un film che va anche vicino al capolavoro, perché è un'ottima conclusione di una trilogia, cominciata benissimo con Batman Begins, continuata con il famosissimo, e probabilmente il film con cui moltissimi si sono approcciati a questa trilogia, ovvero Il Cavaliere Oscuro. Heath Ledger. Con naturalmente praticamente il testamento biologico di Heath Ledger, il film che era proprio Heath Ledger, quel film era solo Heath Ledger, non c'era neanche Christian Bale, era solo Heath Ledger quel film, e forse era anche per questo che era un film bellissimo. Comunque, c'è ben poco da dire. Ah, è un film Hathaway! Ma Marion Cotillard, dai! È un film che rasenta il capolavoro, assolutamente. È un film che tutti dovrebbero vedere. Batman, comunque, Dark Knight Rises, è veramente un film bellissimo. Christopher Nolan, ormai un genio. Credo che almeno, non so, tante di quelle persone ormai abbiano avuto un grandissimo amore per Christopher Nolan. È un'ottima conclusione per una trilogia che era cominciata benissimo, continuata ancora meglio, che faceva in qualche modo vedere una versione particolare di Batman, con Batman che, come si può dire, Batman in versione moderna, quindi molto... C'è una faccia da culo, veramente. Christopher Bale. Sì, Christian Bale. Può anche essere, dai. Cioè, preferivo Heath Ledger, però in effetti il problema... Mi ricorda troppo Johnny. L'unico problema, in effetti, è che, allora, Batman Dark Knight, cioè il Cavaliere Oscuro, aveva il grandissimo pregio di avere il Joker, ma il grandissimo difetto del fatto che era un film incentrato sul Joker. Cioè, Batman non c'entrava praticamente niente in quel film. E forse questo può anche essere visto come un grandissimo fattore positivo. Fattore negativo in un certo senso, perché in un film di Batman, Batman non è importante. E quindi l'unica differenza tra questo film e Dark Knight è appunto il fatto che Dark Knight Rises invece parlava di Bane. Cioè praticamente un film dove Batman deve risorgere, ma deve sconfiggere questa sua nuova nemesi che è Bane. Ora, il problema è che, come si può dire, si sente un po' la mancanza del Joker. Se Heath Ledger fosse stato ancora vivo e ci fosse stato in questo film, secondo me questo film sarebbe stato un capolavoro estremo. Comunque, per il resto, è sicuramente uno dei film più belli che abbia mai visto e credo che in molti siano d'accordo con me. Forse, vabbè, Il Cavaliere Oscuro è leggermente migliore, ma siamo sempre su altissimi livelli. E ora concludiamo con la bomba finale. Bomba! Ovvero, che ho visto ieri, cioè, se la gente che dice che la grafica non è se la grafica non è bella, un gioco non è bello, oppure un film non è bello, bene, con questo film gli possiamo dire chiaramente di andare a quel paese. Perché noi parliamo di The Artist. Vincitore di 5 premi Oscar e 3 Golden Globe. Spero di dire giusto, perché l'ho letto ieri nelle info del film. Cosa posso dire di questo film? È un film realizzato nel 2011/2012, credo, in bianco e nero e muto. È una bella scommessa. All'inizio credevo fosse americano, però poi ho pensato, vabbè, francese. Sì, è un film francese e devo dire che, diciamo, l'ho visto solo ieri notte, ma è quel film è stupendo, cioè lo consiglio di vedere perché fa vedere come il sonoro non è tutto, perché lì è incentrato sulla recitazione. E anche la grafica non è tutto, senza lì, effetti speciali. Quel film è un film ambientato negli anni 30 e parla, diciamo, della decadenza di questo attore di film muti che con l'avvento del sonoro nessuno va a vedere più i suoi film. E diciamo, è dell'affermazione di questa nuova diva, la signorina Miller, non sbaglio, non mi ricordo il nome di lui, che faceva Zorro, ha fatto un film muto di Zorro. Che bello, lo vorrei vedere. E quindi praticamente parla, ormai questo attore è caduto in depressione, decide anche di vendere tutti i suoi oggetti cari e decide anche di fare finita la sua vita in un modo praticamente da fuoco alle sue pellicole, ma il genio che rimane intrappolato nel suo stesso incendio. Quindi è uno spoiler? No. Lo si sa già? Sì, perché si sa dalla trama. No, è praticamente poi praticamente questo attore è affiancato dal suo fedele cagnolino che Idefix. Fa morire quel cane e praticamente riesce, diciamo, si salva dall'incendio grazie al cagnolino che va a rompere le balle a un poliziotto che lo vuole anche mandare via il cagnolino e, diciamo, viene preso in cura da questa signorina Miller di cui lui è andato a vedere i film e ne è rimasto, diciamo, è incominciato anche lui a piacere, diciamo, il sonoro e cosa posso dire? E alla fine, però purtroppo cerca di nuovo di suicidarsi il tipo, quindi è un trollo della Madonna. E c'è la scena di cui la ragazza che stava cercando di farlo rimettere, diciamo, di rimettere in sesto facendo un film insieme. Non mi ricordo come si chiama il protagonista, oh, c'è un vuoto. Lei si chiama la signorina Miller. E diciamo cerca di rimetterlo in sesto, però lui cerca di nuovo di suicidarsi e c'è la scena della ragazza che corre con la macchina e quella scena è di poco allucinante per le capacità di guidatrice della autista di autista della ragazza autistiche. No, mi hai fatto sbagliare la passo. Vabbè, comunque se vuoi se vuoi taglia corto così almeno finiamo. No, comunque consiglio a tutti di vederlo. Dimostrazione, insomma, che il sonoro e la grafica, gli effetti speciali non sono niente. se non c'è arrosto, il fumo non serve sinceramente a niente. No, comunque consiglio a tutti di vederlo, è un film della Madonna, che praticamente niente effetti speciali, niente di che, è un film, punto, punto, fine. È un film. È un film con la F maiuscola, perché è molto bello. E se questo è un film, su queste note concludiamo il podcast. È stata una versione molto, molto, molto, molto allungata. Del 2011, per un semplice motivo, film. Perché dovevamo parlare di tutti quanti i film che avevamo visto l'anno George scorso. Valentine, ecco. George Valentine. E lei era... Concludiamo con questo nome. Lei è Pepe Miller, quindi ecco, quando me lo ricordavo. Vorrei concludere dicendo un'ultima cosa. Se vi è piaciuto questo esperimento, scrivetecelo. Tanto vabbè, se sapete come trovarci, sicuramente sapete anche come iscriverci. Quindi niente, speriamo che vi sia piaciuto. E i prossimi episodi parleremo magari di giochi che ci sono piaciuti oppure di film che abbiamo visto nell'ultimo periodo, in maniera magari un pochettino più breve, perché veramente questa ormai sono tre ore. Era una maratona di tre ore. Non sarà sicuramente tre ore in tutto, comunque. Cioè, in tutto adesso, per adesso sì, poi ci sono tagliamo. Quindi niente, speriamo veramente bene, quindi no, salutiamo. Ciao. Ciao. Siamo alla fine e quindi niente, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Sappiamo che era abbastanza lunga, comunque confidiamo nel fatto che non vi siate annoiati ascoltando tutte quante le nostre varie opinioni sui film. Vi invitiamo nel caso a scriverci comunque alla mail fefi con la lettera finale y 94 come numero, Holmes come Sherlock Holmes, @gmail.com. Non ve lo ripeto perché è abbastanza complicato. Comunque scriveteci, metterò la mail nel caso nel commento al post. Spero che comunque vi sia piaciuto. Aspettatevi nuovi episodi con argomenti abbastanza vari e vi lascio a un prossimo episodio, speriamo il prima possibile, con magari anche delle rubriche o comunque con una formazione un pochettino più organica, ma soprattutto anche con molta più gente da portare in trasmissione. Quindi spero che il tutto quanto vi sia piaciuto, vi lascio al, non so, i prossimi episodi, quindi ciao da Fred, ciao!